Qui, guardando fuori dalla finestra, ogni cosa è ordinata e pulita. Ma io continuo a ripensare alla mia valle. E so che un giorno tornerò. Prenderò posto vicino a Moniba, la mia amica. E altre ragazze con me continueranno a studiare. E la rivoluzione non si può fermare. Viviamo nell'era moderna e tutti crediamo che niente sia impossibile. L'uomo ha raggiunto la Luna e presto saremo anche su Marte. Per questo dobbiamo essere determinati a raggiungere il nostro sogno: istruzione di qualità per tutti. Quindi cerchiamo uguaglianza e giustizia per tutti, non solo i politici e i leader mondiali. Tutti dobbiamo contribuire, me, voi. È un nostro dovere. Dobbiamo lavorare, non aspettare. Dobbiamo diventare la prima generazione a decidere che è l'ultima volta che accade questo. Le aule vuote, i bambini abbandonati, il potenziale sprecato. È l'ultima volta che una ragazza o un ragazzo trascorrono l'infanzia in una fabbrica. Che è l'ultima volta che una bambina viene costretta a sposarsi. Che è l'ultima volta che un bambino perde la vita in guerra. Che è l'ultima volta che un bambino o una bambina rimangano fuori dalla scuola. Che questa sia l'ultima volta. Costruiamo il finale. Costruiamo un futuro migliore. Proprio qui, proprio ora, insieme. Lo spettacolo Fuochi, ragazze ribelli, coraggiose, libere, di e con Monica Morini. Al pianoforte Claudia Catellani, regia Bernardino Bonzani. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 22esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 10 al 18 giugno e a Toffia il 25 e 26 giugno 2022. Ben trovata. Grazie, ciao, buongiorno. Partiamo dalla realtà di Margine Operativo. Margine Operativo è una compagnia artistica, un progetto artistico che è nato un bel po' di tempo fa e che ha la caratteristica che ha sempre lavorato su più codici artistici, principalmente sul teatro, ma intrecciando anche la danza e quelle che sono le performance art, e lavorando anche sul video. E poi un altro aspetto importante del percorso di Margine Operativo è sempre stato quello di immaginare la non autosufficienza nell'ambito dell'arte, e questo ci ha portato a dialogare con altre compagnie, con altri gruppi e a creare un festival che è Attraversamenti Multipli, un festival multidisciplinare che per noi nasce un po' come un grande spettacolo multiforme in cui c'è una carrellata, vengono presentate parecchie performance, spettacoli della scena delle arti performative contemporanee, però viene costruito, curato come se fosse un grande spettacolo anche unico. Quindi non ci piace definirci organizzatori, ma usare la parola che curiamo un festival, perché racconta un po' più anche il lungo processo attraverso il quale poi viene costruito il festival ogni anno. Come si articola quest'anno? La caratteristica di Attraversamenti Multipli, per quest'anno arriva alla sua 22esima edizione, è che è un festival che lavora in dialogo e interazione con i paesaggi urbani, quindi si colloca sempre negli spazi urbani della città, e in questa edizione abitiamo la zona del Quasaro, all'interno di una progettualità che si sta sviluppando in più anni, e il fulcro del festival 10, 11, 12, siamo a Largo Spartaco, e quest'anno all'interno del percorso del festival però introduciamo due giornate in una location nuova, che è il Parco del Torre del Fiscale, che fa parte del Parco Archeologico dell'Appia Antica, il 15 e il 16 giugno. Quindi per noi questa è anche un po' una sperimentazione nuova di inserire due giornate del Festival Attraversamenti Multipli all'interno di uno spazio verde, per aprire anche un ragionamento sulla relazione tra le arti performative contemporanee e luoghi alti, ma anche su un ragionamento sulla sostenibilità, sul green. Dobbiamo ogni anno comunque implementare il festival anche con dei ragionamenti e delle caratteristiche diverse. E poi il festival continua il 17 e 18 nuovamente negli spazi del Quadraro con il fulcro a Largo Spartaco, e poi ci spostiamo a Tossia, che è un borgo vicino a Rieti, il 25 e il 26 giugno, con due giorni dedicati a nuove generazioni spettatori. Per quanto riguarda il programma, attraverso eventi multipli anche quest'anno continua il suo percorso multidisciplinare, quindi l'altro elemento che è stato uno dei pilastri, sempre accompagnato in questi anni, è stato proprio l'intreccio tra diversi codici artistici, quindi il teatro, la danza, la musica, e una grandissima attenzione sui site specifici, quindi su performance che vengono costruite per il festival e anche in esclusiva per gli spazi con cui interagiscono. Quest'anno siamo particolarmente contenti che siamo riusciti di nuovo dopo la pandemia e accogliamo nuovamente delle compagnie anche dal resto del mondo, e abbiamo una forte presenza anche di prime nazionali, anche per questo elemento da caratteristica del festival, per il dialogo che c'è durante l'anno con gli artisti che partecipano al festival e di costruzione di spettacoli originali creati per attraversamenti multipli. Il primo giorno presentiamo in prima nazionale uno spettacolo di una giovane compagnia di Napoli che si chiama Cornelia, una compagnia di danza, che hanno costruito questo spettacolo appositamente per il festival, che è un po' un manifesto, diciamo, alla generazione Z. Poi c'è una compagnia basca che ci presenta in prima nazionale uno spettacolo intitolato Tempo Diz, e molto interessante in quanto è stato costruito in uno scambio culturale tra Spagna e Mozambico, e in scena ci sono due danzatori del Mozambico che intrecciano la danza con l'acrobatica, con l'hip hop, con le culture contemporanee e con la danza africana. Quindi sempre il 10 poi abbiamo la Casa d'Argilla, compagnia di teatro, che presenta una installazione sonora urbana, Rosetta, storia di mondi possibili, che è un'installazione sonora a flusso continuo, quindi gli spettatori possono venire a ascoltare con delle cuffie questi racconti tratti da Ballard, qui tutti fantascientifici, e il nome Rosetta è una citazione della sonda spaziale Rosetta. E abbiamo un'altra installazione performance specifica che abbiamo costruito insieme a Montocane, che è Teleradio Metropoli, una specie di televisione radio performativa in diretta musicale che racconta anche un po' il festival, quindi un racconto performativo dentro e fuori del festival che un po' anche crea una connessione tra i vari spettacoli. Poi continuiamo l'11, dove abbiamo Nicola Scribaldi Capitello, che è un danzatore coreografo, che ci presenta una performance di danza che è Kurup. Un'altra compagnia, una compagnia di donne di Barcellona, Una e Una, che ci presentano in prima nazionale Dosis, una performance che tra l'altro è uno sguardo molto ironico su quella che è la condizione femminile, in quanto all'interno del festival comunque quasi tutte le performance che vengono presentate sono tutte che affrontano un corpo a corpo, lo possiamo definire, con delle tematiche anche del nostro tempo, delle problematiche che ci viviamo. Poi sempre l'11 giugno abbiamo la Casa d'Argilla, che ci presenta Billennio, invece uno spettacolo site specific di teatro e musica, anche qui tratto da Ballard, un reading musicale lo possiamo definire, rivisitato e ripensato per attraversamenti multipli. Anche questo è un altro forma che spesso accogliamo di spettacoli che magari sono già presentati ma che vengono rivisti. E poi il 12 giugno, che è domenica, il primo spettacolo è alle 5:30, è uno spettacolo di circo contemporaneo, compagnia italo-francese Rasoterra, che ci presenta La Ballerina Volante, e uno spettacolo per tutte le età, quindi ogni anno da 20 minuti presentiamo degli spettacoli di circo contemporaneo dedicati anche alle nuovissime generazioni di spettatori, quindi dai 0 ai 99 anni. E questo è tutto in bicicletta acrobatica. E poi la sera invece c'è Francesco Leneri, che è un musicista e compositore, che presenta il primo studio di cartoline, che è un suo nuovo lavoro di composizione musicale performativa. E poi abbiamo la compagnia di danza Una e Una, che però presenta il 12 uno spettacolo diverso, quindi la ospitiamo per due giorni con due produzioni diverse, uno spettacolo anche questo molto ironico invece sulla figura del turista, dove tutto è incluso, cioè il turista quello massificato. E poi alle 9:30 invece presentiamo come margine operativo in prima nazionale Memoria del Sottosuolo, uno spettacolo nuovo, una performance che vede in scena Ioris Petrillo, anche qui un intreccio tra danza, teatro fisico e teatro e musica, tratto da Amore del sottosuolo di Dostoevsky. E questa è la prima tre giornate del festival. Poi la settimana successiva, il 15 e il 16, siamo invece al Parco di Tor Siscale, mercoledì e giovedì, ed è sono due giornate a cui teniamo molto, perché appunto è la prima volta che attraversiamo un parco. Il Parco di Tor Siscale fa parte del Parco Archeologico dell'Appia Antica, quindi è un posto molto interessante proprio di confine tra la metropoli contemporanea e l'antico. E lì il 15 giugno presentiamo quattro performance, la prima alle 18, Salvo Lombardo presenta una pratica interattiva della compagnia Chiasma, Salvo Lombardo, danzatore coreografo, ma in questo caso presenta un dispositivo partecipativo, una pratica interattiva che Atrium, che è una specie di assemblea costruita insieme ai partecipanti. Alle 8 Carlo Massari, Cecce Company, presenta in prima nazionale Metamorphosis in natura, quindi un nuovo lavoro. E Nicola Galli alle 9 presenta una performance, uno spettacolo di danza, Il mondo altrove, una storia notturna al crepuscolo, quindi lavoriamo molto anche con le luci naturali, quindi cercando di essere più sostenibili possibile nel dialogo col parco. E per esempio il 15 alla fine Francesco Ineri ripropone una performance cartoline, ma che va già proposta dallo Sparto, chiaramente adattando, qui cambiandola per lo spazio del parco archeologico. Il 16 giugno invece abbiamo Azioni Fuori Posto alle 6, performance itinerante, compagnia di danza giovane che ha vinto Danza Urbana con questo spettacolo, che presentano, oltrepassare questa performance, si snoda, crea un percorso per tutto il Parco Tor Siscale, quindi anche un modo per conoscere ed esplorare il Parco Tor Siscale. Alle 20 Carlo Massari ripropone Metamorphosis in natura, e invece alle 9 Roberto Latini presenta una prima nazionale, la variazione numero 3 dello spettacolo Venere Adone, già presentato sotto altre forme, nel senso Venere Adone è un progetto artistico multiforme di Roberto Latini che ha varie declinazioni, e questa variazione numero 3 è stata costruita appositamente per il festival. Il 17 giugno invece, che venerdì, ci rispostiamo al Quadraro. In realtà la giornata inizia alle 17 alla Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo, dove abbiamo organizzato un momento di incontro e confronto tra vari festival che lavorano sulle arti performative contemporanee, si chiama Il Battito del Reale. Siamo ospitati per questo appuntamento, durante il quale insieme a noi ci sarà altri festival come Danza Urbana di Bologna, come Kilowatt Festival che lavora invece a Sansepolcro Arezzo, e O Fuori Programma, che invece è un festival che lavora sempre sulla danza contemporanea a Roma, e tanto più o meno nello stesso periodo, ma proprio dentro un'ottica di cooperazione tra festival. Alle 17. Poi ci spostiamo dalle 21 di nuovo a Largo Spartaco, dove presentiamo uno spettacolo di una giovane compagnia di Napoli che si chiama Funa, declinata al femminile, che presenta Room 22, uno spettacolo che è stato tra i vincitori di Danza Urbana Excel in quest'anno, nel 2022, premio dedicato alla danza urbana, che ogni anno ospitiamo uno dei progetti vincitori. È uno spettacolo, tanto questo, che è nato durante il periodo di lockdown, quindi ha delle caratteristiche determinate anche da questo elemento. Poi alle 9:30 presentiamo una performance del coreografo e danzatore Daniele Indarello, No Modi No Modi. Anche questa performance è nata durante il periodo del lockdown, quindi affrontiamo dalla giornata del 17 due performance molto diverse, però molto interessanti, proprio perché sono state costruite in quel momento di distanziamento fisico e sociale. E sempre il 17 giugno dalle 9 di sera abbiamo a Largo Spartaco l'Argio Operativo e Mondo Cane con la Radio Metropoli, che accompagnano il festival, e appunto performance anche questa site specifica intreccia la radio live performativa con i video e con la musica. Il 18 giugno invece, che è sabato, ultima giornata del festival a Roma, partiamo alle 5:30 con uno spettacolo di circo contemporaneo, Madame Rebinet, e anche questa compagnia italo-francese che hanno il presidente prima nazionale. Questo spettacolo si chiama Attraversamente, quindi dedicato al festival Attraversamenti Multipli, insomma il meglio della loro produzione di questi ultimi 10 anni, in più alcuni elementi nuovi delle loro prossime produzioni. E questo è 5:30. Poi dalle 8 abbiamo sempre Margine Operativo Mondocane contro le Radio Metropoli. Alle 9 siamo molto felici di ospitare una prima nazionale creata proprio il festival dalla compagnia Spellbound, che con la coreografia di Mauro Stolfi, If You Were a Man, un'anteprima a cui teniamo molto. E subito dopo dopo le 9:30 un'altra performance di danza, abbiamo una compagnia invece che viene dalla Germania, il Frantips Dance Company, e che anche qui ci presenta un site specific creato per il festival, e chiudiamo con la musica, con un momento di festa col DJ set della Rina del Fomento e un momento di festa di chiusura del festival dalle 10:30 in poi. Qui il 18 giugno una bella giornata densa e poi proseguiamo su due giornate ad hoc, il 25-26 con due spettacoli dedicati alle giovani generazioni, ma non solo. Il 25 c'è Twain, compagnia di danza che presenta On the Road, quindi una performance itinerante tratta di Romeo e Giulietta di Shakespeare, che si snoderà in tutto il borgo di Tokyo. Mentre invece il 26 il teatro d'apparizione presenta all'improvviso uno spettacolo dedicato ai bambini dai 4 anni in poi. Ricordo che tutto il programma è sul sito che attraversamentimultipli.it. 22esima edizione a Roma dal 10 al 18 giugno, a Tostia il 25 e 26 giugno 2022. Un saluto e ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima! Grazie, grazie, ciao! Con Chiara Crupi, una delle curatrici della 16ª edizione del Festival di Nuovo Circo e Teatro Anomalie, la sperimentazione in periferia, a Roma, Torre Maura, dal 9 al 19 giugno 2022. Ben trovata. Grazie, ben trovati, grazie Federico di ospitarci, come tutti gli anni, ormai da 16 anni. Raccontiamolo. Anomalie appunto ha un sottotitolo, uno slogan, che è la sperimentazione in periferia. È un progetto del Collatin Underground e rafforza e riafferma anche quest'anno per la 16ª edizione quelli che sono i suoi punti, ovvero portare il nuovo circo, perché Anomalie è dedicata al nuovo circo e anche al teatro sperimentale, ma soprattutto il nuovo circo che per la sua peculiarità è proprio adatto ad ogni tipo di pubblico, quindi viene apprezzato ed amato dai bimbi ai nonni, e poi ovviamente noi lo portiamo in maniera quasi completamente gratuita, nel senso che questa edizione offre 3 spettacoli al giorno, di solito alle 19, alle 20 e poi alle 21, e 2 laboratori dalle 18 alle 19, quello dedicato al nuovo circo e più che altro per la prima infanzia, insomma fino ai 12 anni, e poi invece il laboratorio di canzone popolare romanesca tenuta da Alessandra Magrini, è accompagnato da Antonio Carbone, che invece è dedicato al pubblico residente, quindi comunque che vive l'intorno e che è numerosissimo, e un po' più adulto, quindi appunto addirittura ci sono in prima linea tutti i partecipanti del Centro Anziani che vengono proprio a cantare le canzoni popolari romanesche che poi saliranno in scena. Quindi un'anomalia ricca di appuntamenti. Lo spettacolo delle 21 chiediamo per i non residenti in Piazza Municipio un contributo di 3 euro. Raccontiamo anche un po' come era nato tutto, qual era il progetto e poi come si è sviluppato nel tempo. Anomalie nasce intorno a uno sciapitò, quindi a un tendone da circo, consapevoli che la presenza di un tendone da circo e di circensi, quindi di artisti che con i loro spettacoli fanno sognare, fanno meravigliare grazie agli equilibrismi, grazie anche all'ironia che spesso anche i clown, quindi a quest'ilarità che il clown e a volte l'attore riesce a stimolare nel pubblico, e grazie ai numeri di giocoleria che spesso appunto meravigliano, ma parliamo anche del trapezio, dei tessuti, quindi di queste per la maggioranza danzatrici o artiste che proprio si librano nel cielo, no? Parliamo proprio di numeri che portano meraviglia, meraviglia, stupore, spettacolo, gioia e ilarità all'interno del pubblico. Quindi Anomalie nasce per questo, per portare la meraviglia del nuovo circo, lo stupore che crea nello spettatore in periferia e appunto con un criterio di accessibilità economica. Infatti non a caso questa manifestazione da 16 anni fa parte dell'Estate Romana, perché viene riconosciuto proprio il valore dello spettacolo dal vivo, in questo caso anche mirabolante, quindi che migliora la qualità della vita delle persone, soprattutto se gliela porti sotto casa, quindi in periferia. Anomalie inizia 16 anni fa dal quartiere della Rustica, dove ancora non c'era una strada dove montammo il tendone, quindi c'era un pezzetto di strada non asfaltata che dovevamo percorrere, e poi negli anni appunto è stata poi al Parco Meda e sulla Tiburtina, sempre in periferia. Adesso siamo a Torre Maura, quindi continua il Collatino Underground a manifestare questa volontà di animare animare i territori non centrali della capitale con uno spettacolo dal vivo che sia adatto a tutti e che possa proprio generare meraviglia, bellezza e in qualche modo confortare un po' questa torrida estate, quindi confortarsi attraverso la cultura e lo spettacolo sotto casa. Quest'anno quanti eventi, quanti artisti e compagnie? Abbiamo 10 giorni di spettacolo, da giovedì 9 giugno aprirà Nicola Danesi De Luca dei Tony Clifton Circus con il suo spettacolo in solo Coco Clown, e poi appunto avremo 3 spettacoli al giorno. Invito tutti a vedere il programma completo che si trova sul sito collatinounderground.eu alla voce Anomalie, ma anche sul nostro profilo Facebook verranno annunciati tutti gli spettacoli ogni giorno, comunque mediamente 3 spettacoli al giorno con i migliori artisti che si trovano non solo nella capitale, quindi parliamo sempre di Nuovo Circo. Per esempio mi viene da dire che il 12 di giugno ci sarà questo spettacolo di Lucignolo Paolo Mele, che è uno dei più importanti firemen, quindi uomini del fuoco, che ci sono in Italia e che appunto porterà proprio il suo ultimo spettacolo. E poi ancora Grazia Palermo con Cerchi in Testa, quindi uno spettacolo di equilibrismo e di tessuto. Abbiamo anche il Gran Volan, che praticamente è una struttura autoportante che arriva a 12 metri d'altezza, e lì su Costanza Bertinotti e Shai Warpinas, che sono due notissimi equilibristi italiani, verranno proprio a Roma, monteranno questa struttura, questo il 17 giugno per esempio, e saremo tutti col naso all'insù a guardare queste acrobazie mirabolanti. Io vi invito a guardare il programma completo. La 16ª edizione del Festival di Nuovo Circo e Teatro Anomalie, la sperimentazione in periferia, a Roma, Torre Maura, dal 9 al 19 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Crupi. A presto! A presto, grazie! Con Laura Sonnino, curatrice della seconda edizione di San Barte in Festival, dal titolo Insieme Resistiamo, a Roma, San Basilio, dal 10 al 19 giugno 2022, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Federico. Raccontiamo cos'è questo esperimento. Noi siamo un collettivo artistico San Barte, che siamo presenti sia sul territorio di San Basilio. E l'idea nasce nel 2020, nello specifico dall'incontro tra noi del Teatro Popolare San Basilio e il Vania Castelfranchi del Teatro Igramul, che diciamo che è la parte nobile di San Basilio San Cleto, però fa sempre parte di San Basilio, che ha un teatro da parecchi anni. E l'intento è proprio quello di unire le nostre competenze per portare bellezza in un quartiere che ormai anche a livello narrativo e di cronaca sta su tutti i giornali. Però San Basilio è anche altro, e quello che noi vogliamo portare come messaggio è proprio questo. I lotti di San Basilio sono molto belli, hanno questi cortili, queste corti che si prestano per accogliere realtà sociali come potrebbero essere spettacoli teatrali. Il nostro intento è quello di creare una partecipazione del territorio, questo è anche il tema Insieme Resistiamo, dove resistiamo ha un duplice significato, perché c'è amo per amore, che riprende anche il tema che abbiamo portato a Carnevale di quest'anno, e oltre l'amo c'è il simbolo della balena, che è la fontana che si trova sulla piazza principale di San Basilio, con l'amo che cerca di comunque armarla, no? Ma non ci riesce perché resiste la balena ad essere catturata. Quindi il nostro intento è quello comunque di creare sempre più un interesse da parte degli abitanti, ma non solo, ma di far intendere che San Basilio è Roma. Questo è un festival che si svolge a San Basilio, ma per tutta Roma, e questo è un tema per noi fondamentale, no? È un quartiere che ha bisogno di essere conosciuto anche per altro, perché l'umanità e la dignità che hanno le persone all'interno di questo quartiere magari in altri quartieri non c'è. Anche l'Unione, no? Se parliamo anche di resistenza, ricordiamo anche la lotta che hanno fatto a San Basilio, la lotta per la casa, che è un movimento importante che c'è stato nell'arco degli anni e che lo caratterizza, ma che lo è ancora anche adesso. Il nostro intento è quello di creare una partecipazione, e poi la cosa che noi ci teniamo a dire è che quest'anno il Festival di San Barte lo aprono i bambini del quartiere. che hanno partecipato ad un laboratorio Samba e Burattini fatto all'interno della biblioteca Aldo Fabrizi per tutto il mese di maggio. E quindi i bambini hanno creato dei burattini fatti con la carta pesta, comunque con diverse tecniche, e inventato delle vere e proprie storie. E quindi saranno loro che daranno il là a questo festival quest'anno. Com'è strutturata questa edizione? In 6 giornate. I venerdì e il sabato, quindi il 10 e l'11, e poi il 17 e il 18 sono pomeridiani, che vanno dalle 17 alle 20, all'interno comunque dei lotti delle case popolari. E ci sarà una vera e propria festa, quindi ogni giornata avrà dei laboratori artistici e creativi, e Gioca Crea colora con noi, che è per adulti e per bambini, che sono curati da noi, dal collettivo di Sambarte. E poi ogni giornata ci sarà comunque una banda musicale e delle performance teatrali, in particolar modo che riguardano la commedia dell'arte, perché è una rete che si è creata insieme a Vania Castelfranchi, che fa parte di Commedarte, e quindi la maggior parte delle esibizioni sono di tradizione popolare, come è la commedia dell'arte, per riportarla anche in questi luoghi, riconoscendo anche la storia della commedia dell'arte, riportarla in questi luoghi che magari come linguaggio può essere più affine, ma soprattutto perché portano una bellezza e l'ironia, trattando dei temi che invece sono temi molto, molto forti, che toccano, ecco. Apriranno come musicisti la banda della Fanfaroma. È una banda di musicisti indipendenti, e loro si definiscono gli agitatori culturali, che cercano comunque di fare incursione musicale all'interno anche di realtà sociali come queste, portando comunque gioia. Oltre a questo, come banda abbiamo X Banda Rustica, che invece è un progetto sociale della Rustica, che prende dei ragazzi che vivono nelle case famiglie e che ormai da tanti anni suonano anche in festival importanti, dando comunque delle opportunità nuove a questi ragazzi, che c'è chi come noi crede che non ci può essere una differenza sociale soltanto per una questione economica, ma la cultura deve avere un accesso a tutti, perché tutti devono avere uno spazio e la possibilità anche di accedere alla creatività, all'arte, alla conoscenza, e naturalmente ognuno mantenendo la propria identità, perché quello è fondamentale, mantenere la propria identità. Ci tenevo a dire anche, questa è un'altra cosa importante per noi, che quest'anno invece avremo anche 2 serate, una il 12 e l'altra il 19, che vedono una modalità differente di fare arte, perché quello che aprirà, cioè comunque uno spettacolo clown di bulle di sapone, poi ci saranno comunque degli spettacoli musicali fatti direttamente da artisti che sono nati e cresciuti a San Basilio, e poi ci sarà un dibattito, che portiamo 2 temi fondamentali per noi in questo dibattito che è aperto. I temi che verranno affrontati sono nello specifico 2. Il 12 giugno il tema della tavola rotonda col dibattito è "Insieme resistiamo, resistere attraverso la cultura e l'arte". Come dicevo prima, la cultura non ha un ceto, la cultura è uno strumento che deve essere trasversale, quindi portare avanti questo messaggio in un contesto sociale come è quello di San Basilio, e questo si svolgerà in via Girolamo Michelli 132, e anche con senso dell'educazione, perché c'è un'attenzione che va messa, che a San Basilio c'è un altissimo tasso di abbandono scolastico dei ragazzi, e quindi parlare di questi temi insieme agli abitanti, insieme a chi parteciperà, secondo noi è un momento fondamentale, per poi proporre uno spettacolo teatrale che è Il viaggio di Alichina, che non è nient'altro che la commedia dell'arte nella visione dell'inferno di Dante, quindi Dante in versione commedia dell'arte. Per il 19 invece il tema che noi vogliamo portare invece è quello dell'uguaglianza di genere, in particolar modo il ruolo della donna, portando un altro spettacolo, e anche qua ci sarà alle 8 la tavola rotonda col dibattito dei diritti delle donne, in particolar modo la voce delle donne, l'ingiustizia sociale e la guerra, le donne inascoltate, il loro desiderio di una politica meno patriarcale e più legata ad una giustizia dal basso, di partecipazione, di ascolto e di condivisione. Proponiamo anche qua una versione di Antigone, sempre una tragicommedia dell'arte, con la regia di Carlo Boso. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Noi abbiamo una pagina Facebook che è Sambarte in Festival e la stessa cosa su Instagram, Sambarte in Festival. È tutto gratuito. Conoscere San Basilio con occhi diversi, con una narrativa diversa, che è quella della bellezza architettonica che c'è, al di là delle mancanze che ci sono di ristrutturazione e di queste corti fatte apposta per ospitare il teatro. Come collettivo di Sambarte vi aspettiamo per portare un po' di allegria e di ritrovare dopo 2 anni di Covid quell'unione sociale all'interno delle piazze, e questa volta non parliamo di Piazza di Spagna ma parliamo delle piazze di San Basilio. Seconda edizione di Sambarte in Festival, insieme resistiamo. A San Basilio, a Roma, dal 10 al 19 giugno 2022, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Laura Sonnino. A presto! Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori e vi aspettiamo tutti insieme a San Basilio. Con Gloria Sapio, direttrice artistica del Festival Multidisciplinare Portraits on Stage, Valle dell'Aniene, dal 12 giugno al 9 settembre 2022, ben trovata. Ben trovati voi, grazie di avermi invitato, sono molto felice sempre di parlare con voi. Raccontiamolo un po' per chi non lo conoscesse, cos'è? Portraits on Stage è un festival che è nato 3 anni fa, anzi ci sono state anche delle edizioni precedenti, però da 3 anni vince il bando per la valorizzazione dei luoghi attraverso lo spettacolo dal vivo indetto dalla Regione Lazio, e quindi riusciamo a dargli maggiore sostanza. L'idea nasce da una rete che si chiama Portrait on Stage, che è una rete nazionale che coinvolge altri soggetti, e sono tutti soggetti, gruppi di teatro, gruppi multidisciplinari che si sono ritrovati a lavorare sullo stesso soggetto, e cioè il rapporto che c'è tra l'arte dal vivo e l'arte figurativa in senso molto ampio. Quindi abbiamo creato questa rete per questa coincidenza, visto che avevamo questo interesse in comune, e poi ciascuno naturalmente sviluppa delle attività nel proprio territorio. Noi abbiamo pensato di sviluppare questo festival, che è ovviamente multidisciplinare. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Come dallo scorso anno, ha 2 sessioni separate. Una si chiama Arte in Cammino e si svolge proprio nei luoghi dei cammini di San Benedetto. E poi c'è un'altra parte che abbiamo definito sempre con un'espressione mutuata dall'arte figurativa, cioè paesaggi, che è quella poi di settembre, con una piccola anteprima adesso, proprio a inizio festival, che contempla dei momenti creativi con il territorio, quindi artisti che lavorano sul territorio, eccetera, eccetera, eccetera, oppure proprio esperimenti che coinvolgono il pubblico in prima persona. Quest'anno sicuramente abbiamo ampliato il festival, siamo su 2 valli, cioè la Valle dell'Aniene, che è una nostra zona di riferimento ormai da anni, e la Valle del Giovenzano. E rispetto allo scorso anno abbiamo 2 comuni in più che partecipano, abbiamo 6 comuni sulla parte arte in cammino, e poi a questi 6 comuni si aggiungono altri 2 comuni per la sessione paesaggi, che sono Roviano e Assoli, mentre gli altri comuni sono Gerano, Cerreto, Licenza, Anticoli Corrado, Marano e Subiaco. Territorio ampio. Quanti sono nel complesso gli eventi e quanti gli artisti e le compagnie? Tantissimi, tra incontri, attività collaterali, esperimenti vari, sono tantissimi. Comunque gli spettacoli siamo arrivati a 27, con soltanto una replica, quindi sono tutti titoli diversi. E poi ci sono appunto, ripeto, tutte le varie cose che noi facciamo con il pubblico, eccetera. Gli spettacoli hanno 2 linee, una è quella che riguarda quello che noi chiamiamo i serali, insomma, per un pubblico più adulto, e poi c'è una sessione che invece si chiama Cammino dei Piccoli, che riguarda i bambini, e quindi è l'arte spiegata ai bambini. Come sempre c'è una sessione dedicata alla creatività femminile, quindi alla donna nel mondo dell'arte. Quest'anno abbiamo un approfondimento su Artemisia Gentileschi, che porta il Pilar Ternera, una compagnia di Livorno. Poi abbiamo Moi del Teatro della Tosse, che invece ci parla di Camille Claudel. Abbiamo una Frida Kahlo per i bambini, che è appunto nella sessione Il cammino dei piccoli dei cattivi maestri di Savona, uno spettacolo curioso, perché insomma parlare di Frida Kahlo per parlare ai bambini della diversità, no? Della possibilità che una persona che ha dei problemi anche fisici possa invece poi volare con la mente. Poi c'è un piccolo focus sull'artigianato artistico con le marionette di Filippo, che è appeso a un filo, il titolo dello spettacolo, spettacolo vincitore del Bando in Box dello scorso anno. Sono marionette magnifiche, sono veramente delle piccole opere d'arte. E poi insomma mi piace citare di nuovo il Teatro della Tosse, la Fondazione Luzzati, che sarà da noi con Vita da Burattini, che è uno spettacolo omaggio a Emanuele Luzzati, con i burattini disegnati da Emanuele Luzzati e realizzati da Bruno Cereseto, e che la Tosse ha confezionato per i 100 anni della nascita di Luzzati, che a Genova è stato un grandissimo evento con mostre a Palazzo Ducale, eccetera. Luzzati era genovese, quindi io sono genovese, cresciuta praticamente con i suoi disegni e con i famosi libri per bambini che lui fece tra gli anni 60 e gli anni 70. Poi abbiamo il ritorno degli Stalker, che sono sempre con noi, compagnia internazionale, Distanza Torino, che fa questi spettacoli che sono delle vere e proprie installazioni create insieme al pubblico, spettacolo di grande impatto, con una valenza sociale partecipativa molto forte. E un'altra chicca sono per esempio i Tamburi del Vesuvio, che tornano in scena. Nando Citarella è stato ospite a Roma Europa Festival anni fa, è stato un po' l'evento che lo ha lanciato all'attenzione del mondo, e siamo felici di averlo con questo spettacolo che si chiama Presente Antico, dove con la musica ci descrive un po' l'esperienza del Grand Tour comune ai tanti pittori che hanno attraversato la Valle dell'Agnene. Per tutti i dettagli diamo i riferimenti internet. Intanto, come si può prenotare? Noi abbiamo una mail, prenotazioni@settimocielo.net, poi c'è la pagina Facebook di Portrait on Stage, ma ci sono informazioni anche su settimocielo.net. Io vorrei aggiungere una cosa: questo festival è un festival che ha come idea il fatto di presentare l'arte in luoghi che in qualche maniera contengono la bellezza e quindi sono arte in se stessa. Noi abbiamo delle magnifiche location, come si dice adesso, sia in luoghi dove la natura è particolarmente suggestiva, sia in luoghi dove c'è la storia, come per esempio la Villa d'Orazio a Licenza, oppure dove ci sono bellezze architettoniche come per esempio il castello di Roviano, eccetera. Quindi ogni spettacolo è ambientato in un luogo che ha una sua suggestione particolare, e quindi è molto interessante, vista la vicinanza con Roma, conoscere un territorio non particolarmente frequentato. E questa è anche la sua bellezza, offre veramente dei discorsi a volte mistici, visto che siamo sui cammini di San Benedetto. E quindi ecco, cerchiamo di organizzare un pacchetto che possa invogliare le persone a venire a conoscere questi luoghi, a vedere un bello spettacolo, a vivere con noi l'esperienza artistica che lo circonda, ma è anche visitare dei musei, dei siti archeologici che normalmente magari sono chiusi, invece in quel giorno saranno aperti, i comuni collaborano con noi, abbiamo delle visite guidate gratuite, e poi abbiamo anche un aspetto enogastronomico degli ristoranti che in convenzione accolgono i visitatori del festival. Il festival multidisciplinare Portraits on Stage, Valle dell'Agnene, dal 12 giugno al 9 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Tapio. Aggiungo, ad agosto però siamo fermi, eh? Chiudiamo il 1 agosto e riprendiamo poi alla fine di agosto fino al 9 settembre. Grazie mille. Con lo scrittore Gino Marchitelli per presentare il suo libro Campi fascisti, una vergogna italiana. Ben trovato. Ben trovati voi, ben trovato te. Che storia è questa? Nasce attraverso un caso, perché mentre scrivevo il sesto giallo di denuncia sociale, il covo di Lambrate, per una serie di motivi avevo deciso di trovare degli agganci con la liberazione della Sicilia avvenuta nel 1943 con lo sbarco degli alleati. Scopro che hanno avuto un ruolo importante i soldati canadesi e quindi mi metto a cercare In che modo potevo utilizzare nella trama il fatto che poi era scomparso un soldato canadese del quale si era innamorata una contadina analfabeta siciliana. E studiando questa cosa qui scopro casualmente che c'è un sito campifascisti.it. Lo comincio a analizzare e rimango completamente sbalordito. Che realtà era, che poco si conosce? Io, come tanti, avevo così un'idea, anche una certa conoscenza, che in Italia abbiamo avuto un centinaio, 150 luoghi che il regime, parliamo del fascismo, ha utilizzato per confinare, reprimere, imprigionare, torturare, eccetera, ogni forma di opposizione nel paese. Ovviamente da tutti quelli più famosi, San Vittore, Regina Coeli, Fossoli, Bolzano, eccetera, eccetera, fino a quelli meno conosciuti. Ma quando scrivevo questo libro e sono entrato nel sito, ho cominciato a guardarlo, ho scoperto una realtà tremenda, cioè quella che in Italia ad oggi, scoperti, monitorati, trovati con tutti i documenti veri e originali, i campi e i luoghi di detenzione, eccetera, sono 968 e 1780 nelle colonie, a dimostrazione che la penetrazione della eliminazione, del mettere a tacere l'opposizione nel paese era stata davvero capillare ed estesa. Strano che nessuno abbia raccontato queste vicende, non dico tanto magari noi che facciamo un certo tipo di lavoro letterario, ma che strutture importanti come l'AMPI e tanti altri non avessero parlato di questo, e io mi trovo addirittura nelle condizioni che vado in giro a raccontare di questa cosa. Nel sito che hai citato ci sono anche dati sulle persone detenute e sulle vittime? Nel sito www.campifascisti.it, realizzato, organizzato in continua evoluzione da due giornalisti, Andrea Giuseppini e Herzog, non mi ricordo il nome, cognome Herzog, sovvenzionati dalla comunità europea del Memoriale della Shoah di Roma, ci hanno lavorato diversi anni, perché è stato tolto il segreto di Stato agli archivi del Ministero della Difesa della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente, quando vai a mettere mano a carte che sono state conservate e scritte in maniera militare all'epoca dai militari, ovviamente c'è tutto, per cui tu quando entri in questo sito vedi la mappa dell'Italia, l'allarghi, è coperta di centinaia e centinaia di pallini colorati, questi si posizionano, tu vai col mouse sul pallino, clicchi e ti vengono fuori tutte le informazioni riferite a quel luogo, dove era, quando è stato organizzato. Vai all'interno, addirittura trovi moltissimi di questi gli ordini di servizio, quindi con chi comandava, chi l'ha organizzato, chi c'è stato imprigionato, lettere eventualmente scritte o dai prigionieri o da chi si muoveva coi prefetti, coi podestà fascisti per parlare di queste persone. Cioè una mole di documentazione vera, assolutamente pazzesca. In molti di questi luoghi trovi addirittura delle foto, sono timbrate dal Ministero della Difesa, quindi le puoi guardare ma non le puoi scaricare, mentre i documenti e gli ordini di servizio sì. Trovi addirittura le foto dove noti che in alcuni campi, poco prima che finisse la guerra, addirittura i capi dei campi fascisti iniziavano a solidarizzare coi prigionieri per rifarsi un po' una coscienza e cominciare a sbiadire quella vergognosa camicia nera. Viene citata anche una bibliografia cartacea? Nel mio libro sì, perché poi, visto che Giacabuc mi ha chiesto di scegliere i 9 esempi che mi avevano più colpito, 3 al nord, 3 al centro, 3 al sud, per comunque divulgare, far conoscere che c'è questo sito e questa storia, laddove io poi ho lavorato per ampliare la situazione, chiaramente mi sono avvalso di altri testi, tipo per esempio un documento della Casa della Resistenza di Parma, che racconta bene la vicenda dei 1462 ebrei che sono stati confinati in Appennino, e ovviamente laddove ho trovato altro materiale l'ho aggiunto, l'ho indicato con la bibliografia, e quindi faccio parte nel piccolo di questo progetto che continua a produrre documentazione e a fornirla anche ai realizzatori del sito. Presentandolo in giro per l'Italia, che tipo di riscontri e risposte hai avuto? Io frequento abbastanza su questo libro una linea di presentazioni in ambienti schierati, che può essere l'AMPI, può essere un certo tipo di sinistra, chiamiamola così, variegata, extra parlamentare. e anche una serie di associazioni che si riconoscono nella difesa della Costituzione e della democrazia che noi abbiamo grazie alla lotta della Resistenza. E praticamente nel 99% dei casi mi guardano sgranando gli occhi, perché di questa cosa non si sa niente. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Iniziamo con il riconoscimento del grandissimo lavoro di questi due giornalisti, quindi sul web andate a cercare www.campifascisti.it, vengono fuori una serie di documenti, cercate mappe, lì potete scegliere e da lì scegliete, non so, la mappa dell'Italia, aprite, allargate e andate a vedere luogo per luogo quello che magari vi interessa. Poi per quello che riguarda me c'è il sito ginomarchitelli.com, sono presente su Facebook come Gino Marchitelli, Gino Marchitelli scrittore, Gino Marchitelli Official su Instagram, e questo libro in particolare lo trovate ovviamente in tutto il catalogo della Giacca Book. Il libro Campi Fascisti, una vergogna italiana. Un saluto e un ringraziamento allo scrittore Gino Marchitelli. A presto! A presto, ciao a tutti, grazie. Siamo all'agenda della settimana per quanto riguarda gli spettacoli, ma anche gli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E allora dunque, cosa c'è da vedere questa settimana in teatro? Sicuramente la maggior parte delle cose da vedere riguardano un po', diciamo, i residui di fine stagione. Qualcosa di buono, di interessante, andiamo poi a segnalarlo magari in fondo, ma sicuramente la maggior parte sono prove di giovani attori, giovani compagnie che stanno cercando di misurarsi con il teatro che si fa e non solo quello che si studia. Quindi è anche un momento molto particolare, chissà che andare a cercare, a scoprire, diciamo, le nuove generazioni teatrali è proprio esattamente questo il momento per farlo. E dunque cominceremo a parlarne con il Teatro Tor Bella Monaca, per esempio, che questa settimana presenta un po' di spettacoli vari. Segnalo uno spettacolo, un titolo anche divertente, la regia di Gianni De Feo, si tratta di Risorgimenticchio, e cioè uno spettacolo che appunto si occupa di politica in qualche modo. È un'opera che ha vinto il premio Achille Campanile 2020, che si svolge in quelli di Velletri. Il politico carismatico è il figlio di Palmiro De Mosoni, segretario nazionale del Partito dei Rigoristi e presidente del Consiglio, è scoraggiato dopo i sondaggi che danno il suo partito in calo nei confronti del partito degli accettisti. Ecco, questo, diciamo, un po' la parodia, l'allegoria politica che sta dietro a questo lavoro di questa compagnia di Gianni De Feo, il testo di Giovanni Di Grezia, e sarà in scena il 9 e 10 giugno al Teatro Tor Bella Monaca, dove segnalo anche questa sera e domani uno spettacolo che ha nome Circus Dark Queen, la regia di Stefano Napoli, e in scena ci sono più attori, la compagnia è quella di Colori Proibiti, che è porta avanti, insomma, un lavoro originale sulla sperimentazione, sul linguaggio del corpo, e il corpo degli attori, quasi sempre muti gli attori, si esprimono in quadri plastici, emotivi, e lo spettacolo è ispirato a uno dei maggiori, più intramontabili miti della storia di sé, ovvero sia il personaggio di Cleopatra, ripercorrendo la vicenda di amore, morte, di potere, di passione della regina d'Egitto, ricordando appunto l'Antonio e Cleopatra di William Shakespeare. Quindi questa sera e domani al Teatro Tor Bella Monaca il Circus Dark Queen. Apre finalmente la stagione del Globe Theater e lo fa con appunto una programmazione shakespeariana con ben due spettacoli, e andiamo a segnalarli. Uno riguarda il teatro per i più piccini, chiamiamo così, insomma, vabbè, tanto per dirla, uno Shakespeare ridotto per spettatori bambini, e precisamente un Riccardino III, quindi ovviamente una riscrittura ispirata al personaggio di Riccardo III shakespeariano. Appunto, la regia e la scrittura di Gigi Palla, siamo a Londra del 1450 e la corte d'Inghilterra è in fermento perché arriva la giostra del piccolo cavaliere, i giovani rampoli della nobiltà londinese si contendono il titolo di pretendente alla corona. E questo appunto è quello che conosciamo, lo spettacolo sarà con dei burattini in carne ed ossa, ecco, mettiamola così, quanto pare dalle foto, io non ho visto lo spettacolo ancora, però ecco, sembra molto divertente, insomma, l'idea di riscrivere il Riccardo III con Riccardino III. 11-12, quindi weekend, e il prossimo weekend 18-19, poi ci sarà una replica anche a luglio per Riccardino III al Globe Theater, ma invece ed è prodotto da Piano e Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, sì, ed è il Le Pene d'Amor Perdute. Sarà questa settimana, 10-19 di giugno, quindi da questo weekend fino alla prossima settimana, la domenica prossima, una delle prime commedie di Shakespeare, una di quelle opere su cui Shakespeare in qualche modo fa modello dei personaggi comici e tragici, che ritroveremo poi nelle opere successive, e i meccanismi del comico qui Shakespeare in realtà sono mescolati a una drammaturgia sì divertente e leggera, ma non priva di struttura, non priva di spessore. La regia è di Danilo Capezzani, e appunto l'andremo a vedere al Globe Theater dal 10 al 19 di giugno. Poi, allora, al Parioli questa settimana c'è un omaggio ad Ettore Scola, fatto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, con la raccolta di scene dei grandi film del maestro, che si chiama Scolature, la regia di Mario Grossi, ed è dall'8 all'11 giugno, questo al Teatro Parioli. Poi il Teatro Villa Panfili, dove la programmazione prevede il risultato finale, spettacolo ispirato a Romeo e Giulietta Romeo di William Shakespeare sempre, con la conduzione di Valeriano Solfiti, e sarà questa sera alle ore 18.30. Poi insomma c'è una mostra dedicata al grande Prato Rock, e insomma, c'è vari altri appuntamenti, segnalo, andiamo a vedere sul sito del Teatro Villa Panfili, che fa parte dei teatri in comune, se non vado errato, sì, probabilmente sì, per andare a vedere un po' insomma cosa ci sarà questa settimana. Segnalo queste cose per ora, poi più avanti insomma settimana prossima ci saranno anche degli spettacoli teatrali, ritornerà insomma il teatro a Villa Panfili. Dunque, per quanto riguarda invece le due cose della settimana da seguire, sono indubbiamente, la prima è il ritorno a Roma di Fuori Programma, la rassegna di danza che si svolge a Roma fino all'8 luglio, e questa settimana presenta il primo degli appuntamenti, quello con Enzo Cosimi, nome storico della coreografia d'autore, che abbiamo già visto di recente per Orbita, sempre per quanto riguarda la danza al Teatro Palladium, in questo caso per il Teatro Quarticciolo, in realtà attore nella piazza del Quarticciolo, 11-12 giugno presenterà lo spettacolo La bellezza ti stupirà, che conclude un laboratorio di creazione con la partecipazione dei cittadini appunto del quartiere, quindi qualcosa di molto interessante, e quindi appunto nasce dall'incontro tra Enzo Cosimi, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, le associazioni di quartiere, per fare in modo che il teatro torni a parlare fluentemente con la città. E poi, per quanto riguarda l'ultima cosa che andiamo a ricordare, lo è un po' l'appuntamento della settimana, ovvero sia l'arrivo a Roma della 22esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, dedicato alle arti performative contemporanee, curato da Margine Operativo, con appunto direzione artistica di Alessandra Ferraro e Paco Graziani, cioè ben conosciamo, con cui tanto abbiamo condiviso in tanti anni. Attraversamenti Multipli sarà appunto in vari luoghi, soprattutto a Roma per questa settimana, nel quartiere del Quadraro, poi insomma seguirà a Toffia, in provincia di Rieti, più avanti, ma ne parleremo ancora. Per ciò che riguarda appunto questa settimana, il programma dal 10 al 18 prevede la partenza appunto nel questo weekend con spettacoli di danza, site specific come quello di Cornelia, Sleeping Beauty, che sarà appunto nell'isola pedonale di Largo Spartaco, seguirà poi una prima nazionale, Erza, uno spettacolo di danza con appunto per metà spagnolo e mozambicano, seguirà appunto un'installazione, anzi precederà in realtà un'installazione sonora urbana della Casa d'Argilla, Rosetta, Storie di mondi possibili, quindi una serie di attività, installazioni, performance che seguiranno appunto un programma ben definito che